A me piacciono queste qui. Guai a chi, avendo una buona idea per trasformare la sua casa, si trova ancora trasformata la casa con la stessa idea. Sembrano le massime che si leggono sui libri. Oppure le idee degli uomini trasformano il mondo trasforma le loro idee. Sfrenato individualismo dei collettivisti a oltranza, nessuno è disposto a cedere un briciolo della sua idea di collettività. Con costoro il discorso politico diventa impossibile. Eh sì, bisognerebbe aver vissuto quegli anni. No, ma aveva preso un po' di Cantare sorpresa, magari. Dufay nella scuola significa politicamente di più che non commemorare la resistenza con Bella Ciao. La politica è un sottoinsieme dell'ecologia, come la cultura. Sai quanta gente si incazza a leggere queste cose? C'era un giorno in cui la destra borghese sedeva a sinistra, domani forse Mao siederà a destra. Premonitorio. È carino. Ma adesso è molto. I cinesi sono molto a destra. E difatti il mondo si trasforma sia che tu lo voglia, sia che tu non lo voglia. Chissà come mai c'avevo questa vena, come si dice. Quello sembra un saggio cinese, quello il mondo si trasforma. Ti Ma trovo la molte citazione cose. Beh, io ero subitissimo. abbastanza influenzato dal libretto di Mao, Questo è anche bello. Il significato è la frontiera della parola, il contenuto è la frontiera del discorso. Due parlanti che si intendano sul significato delle parole che usano hanno in comune almeno una linea di frontiera costituita da quel significato. Due parlanti che si intendono su tutto si muovono entro una stessa area, dividono l'uno con l'altro la stessa prigione. Per esempio, anche questa non me l'hanno perdonata. Difatti, ci ho avuto credo uno o due critiche sole a questo libro sull'unità, proprio stroncature folli. Immagino. Il PC detiene e difende il monopolio dell'opposizione, che in quanto opposizione ha il discorso in comune con il potere. È interesse di entrambi che il discorso non muti. La spartizione mondiale del potere tra capitale e socialismo non fa che confermarlo. Ma le vere trasformazioni sono di discorso. Un discorso veramente nuovo non si oppone al precedente, lo sostituisce poco a poco. Il massimalismo comunista non ammette l'infiltrazione per paura di restare a sua volta inquinato e perdere così la compattezza necessaria al mantenimento del monopolio. Io pongo delle domande, proprio rilucidando per sbattere sul blog dedito a musica società, ci ho letto parecchie cose. C'è un discorso detto con la massima sincerità che con occhi di oggi è molto disuguale e lo dico come una critica positiva. E infatti si capisce che avevi avuto l'illuminazione. Ma sono espressi in un modo che non è immediato. Alcune volte magari lo puoi cogliere se sei nella lunghezza d'onda giusta, altre volte invece è piuttosto scuro. Altre cose invece sono cristalline, fanno onore al titolo, è molto di più di un libro di musica. Queste sono impressioni all'esterno, ma tu sei l'autore. Come ti ci trovi davanti a Musica e Società 30 anni dopo? Quando rileggi tu queste cose. Sì, per me c'è anche un po' il problema di rimettermi non solo in quella problematica, ma in quello stile, sia stile di vita, sia stile espositivo. Cioè, a quell'epoca, questo è un libro che dovrebbe essere, così, nelle intenzioni, un libro critico diciamo, di tutta la politica, sia di destra che sia di sinistra. Però era ancora, diciamo, concepito e soprattutto poi eseguito stando all'interno di un'elite, no? Qui il linguaggio elitario non mi faceva nessuna paura, anzi, non dico che lo ricercassi, di proposito, ma siccome io ci vivevo dentro da tanti anni, mi era normalissimo e non trovavo nessuna ragione per cui dovessi semplificare il discorso. Il linguaggio alto colto. Linguaggio tipicamente alto colto, nonostante che proprio la prima, l'inizio, l'attacco del libro comincia: tutto ciò che può essere detto a tutti. È solo una questione di tempo, del tempo necessario a saturare i successivi livelli di specializzazione linguistica. Io qui ne ho saturati pochi, nel senso, molte cose le do per scontate. Dei termini che non si capiscono me ne frego completamente. Te arrangiati, lettore, fai in modo di capirli. Era il mio atteggiamento di allora, tipicamente altoculto, perché ero abituato a vivere così, e quindi, anche se il progetto era di abbattere proprio questo elitarismo, però di fatto lo stavo abbattendo con le sue stesse armi, quindi in maniera un po' ambigua, e non, oggi non mi convincerebbe più. È troppo meccanicista, visto con gli occhi di oggi. Sì, anche questo è vero. Cioè, cosa intendi per meccanicista? Vediamo un po'. Cioè, per meccanicista intendo un approccio che pensa che l'espansione di questa diffusione, di questa divulgazione, deve avvenire attraverso un linguaggio abbassato, una specie di pazienza verso l'ascoltatore, nel quale devi abbassarti, devi far esplodere quello che tu hai concepito come idea sintetica in una lunga spiegazione dettagliata, eccetera. Quindi una specie di dire sintesi equivale a grande capacità di percezione, invece non sintesi, espansione, equivalga a popolo generale. Generale, certo. E per quello lo chiamavo meccanicista, perché si pensa che qualità equivalga a ristrettezza e quantità equivalga invece a accesso popolare. Beh, sì, questo posso essere anche d'accordo, però a mia scusante vorrei dire questo, che a quell'epoca, non avendo fatto un'effettiva esperienza di base come ho fatto nei decenni certo. successivi, per me era normale e naturale esprimermi in quel modo. Non avevo nessuna intenzione di farmi capire, anche perché questo è un libro fortemente autoriferito. Cioè, ero in un momento di grave crisi, diciamo, oggi si usava dire esistenziale, infatti di fatto era una crisi più che altro professionale, di me in quanto musicista, di me in quanto responsabile, secondo quello che era la mia idea, di un certo settore della cultura di fronte alla società. Era in forte crisi e lo scopo di questo libro è stato quello di chiarire a me stesso di che si trattava, in che senso ero in crisi. Forse addirittura nel subconscio, messo che il subconscio esista e abbia senso parlarne, io già pensassi a poi una fase successiva in cui avrei mano a mano chiarito anche agli altri, ai lettori, qual era, diciamo, un po' il succo, il nodo di questa crisi. A questo punto qui ancora non mi interessa. Ci sono delle espressioni, delle frasi di questo libro che io attualmente non capisco più. Beh, difatti, diciamo, le parti più tipicamente aforistiche hanno tutto il carattere. Beh, preso, me ne leggo una a casa, 320. Ogni vero cambiamento è figlio della conservazione del caos. Cosa significhi non è ben chiaro. Però evidentemente questa espressione mi è apparsa quasi un'illuminazione scritta come scritto sul, cioè, muro. Sul muro. Altri invece sono un pochino più ricercate, motivate, eccetera. Probabilmente quelle che rimangono un po' più impresse e sono quelle che hanno questo carattere fulminante, aforistico, che credo io abbia mutuato dal libretto rosso di Mao. Ti leggo una io, perché sì. non leggi tutto tu. Sì. Numero 65. Sì. Comporre non la musica, ma i circuiti di utilizzazione della musica. Comporre non con i suoni, ma con le persone che utilizzano i suoni. Inventare non l'opera, ma il fruitore. Lavorare sull'ascoltatore e con lui. Comporre suoni, sorgenti, canali, destinatari. Questo è proprio una dichiarazione di intenti, un programma, no? Che è il programma che nei decenni seguenti ho tentato di realizzare effettivamente. Quindi la composizione è estesa non solo alle note, ma all'utilizzo delle note, al rapporto con l'ascoltatore, eccetera, cosa che tuttora, diciamo, per me è attuale, insomma, io intendo la composizione così, ma forse si è sempre intesa così, solamente detto in una maniera piuttosto sintetica e forte. Cosa ne penserebbe, ad esempio, se avessimo qui a tavolo qualche contemporaneo che si occupa di composizione, cosa ne penserebbe? Ma in linea generale penso che questo libretto non sarebbe ben accolto da chi fa il compositore con intenti e speranze professionali, perché chi fa questo, come io stesso fino a quel momento lì, facevo musica per la musica, per l'eternità, per l'arte, per che so io. Chi invece ha abbandonato un po' questa diciamo, visione ideologica e si è dato, poi in seguito sarà sempre più evidente, a una pratica di base, una pratica quindi estesa alla società indiscriminatamente a tutti. Ecco, questa linea qui, sì, ha avuto delle, diciamo, ovviamente, degli adepti, però non è la linea che ufficialmente percorre uno che studia musica o uno che vuole esercitarsi nella composizione. Ma uno che vuole arrivare alle persone? In genere, per esempio, tutto l'Ottocento è una tendenza verso questo fine, tutto l'Ottocento scrive, cioè i compositori dell'Ottocento scrivono per arrivare alle persone, scrivono per diciamo, offrire alle persone la propria visione del mondo, la propria ideologia, la propria Weltanschauung, no? A cominciare, vabbè, Wagner è il caso più clamoroso, ma ha cominciato Beethoven già a esporre il suo modo di vedere il mondo attraverso i suoni. E questa, diciamo, la tendenza è quella di coinvolgere tutti in questo messaggio. Ecco, l'idea della musica come messaggio. Cioè, intanto presuppone che uno abbia qualcosa da dire, no? E questa è già la partenza. E il compositore dell'Ottocento non aveva dubbi in materia. Ogni compositore sapeva di avere qualcosa da dire e aveva quindi tutto il diritto e direi quasi il dovere di comunicare questo alla società nel suo insieme, dall'elite fino alla base in un certo senso. E nel Novecento questa illusione si è rotta e allora di fatto c'è stata una divaricazione. Una parte della musica ha scelto la via della diciamo, elitaria, quella di restringere, cioè addirittura di trascurare l'elemento comunicazione, l'elemento... O addirittura di chiuderlo. E quindi addirittura di chiudersi in se stessa, perché la musica era autosufficiente. Questa è una visione più o meno dichiarata, ma presente un po' in tutti i compositori del Novecento. E invece l'altra via è quella, è il contrario, è quella di aprire la musica alla società in tutti i suoi aspetti. E questa via è, diciamo, rapidamente, io dico di degenerata, ma questa è già una posizione ideologica, parlare di degenerazione, si è estesa alle caratteristiche della nostra società, che sono sostanzialmente quelle del consumo. Quindi la musica è diventata consumistica, e in un certo senso anche comunista, perché la musica dei paesi comunisti aveva le stesse caratteristiche, cioè doveva per forza arrivare a tutti, per forza piacere, per ragioni più ideologiche, da noi per ragioni più di mercato, ma sostanzialmente quest'idea, diciamo, della musica che in qualche maniera doveva arrivare a chiunque, doveva quindi essere parte costitutiva della società. Questa è ancora un'idea di tipo ottocentesco, che permane per tutto il Novecento e forse ancora non ce ne siamo liberati. Certo, ha avuto poi queste, diciamo, queste due derive opposte, una verso l'elitarismo, che so io rappresentato dalle avanguardie, no? Dove la musica è per se stessa, la musica è l'art pour l'art, la musica per la musica, e dall'altra la deriva consumistica. Probabilmente ancora ci siamo dentro. Il tentativo che nasce, se vogliamo, proprio da questa frase che hai letto prima, è di fatti poi diventata la mia divisa, la mia parola d'ordine per i successivi 40 anni. Eccolo qui, 65. che cioè l'oggetto proprio della composizione non fosse tanto la musica in quanto tale, ma la musica come sistema comunicazionale, come sistema quindi anche formativo, eccetera. Quindi comporre suoni, sorgenti, canali, destinatari. C'è però, come vedete, ancora la pretesa che negli anni immediatamente seguenti cadrà che fosse il compositore a dover fare tutto questo lavoro. Non solo compone più la musica, ma compone addirittura il destinatario. Questa è un'idea ancora ottocentesca. In un certo senso Stockhausen aveva la stessa idea. Pochi anni dopo, due o tre anni dopo, quando è cominciata l'esperienza di Cantalupo, mi sono reso conto che non era più il compositore a dover fare tutto questo, ma era la società in quanto tale. E quindi un'idea altrettanto, se vogliamo, ideologica, ma non più di tipo ottocentesco, che cioè la musica dovesse essere fatta da chi poi la fruiva. Boris, io volevo farti delle domande, allora. Sì, mi faccio. Posso? Certo, Fabacco. Mi chiedevo come mai tu hai iniziato con quest'idea, se c'è un perché, qual era il progetto iniziale, come cioè, nasce? Nasce da un, anche qui, non tanto da un disegno politico o sociale o umanitario che sia, nasce invece da una insufficienza personale, cioè nel 67 io ho smesso di scrivere musica in forma ufficiale, poi ho continuato ma molto dopo. E in altra forma anche. Ho smesso perché ero arrivato a un punto morto, cioè mi ero incartato in un certo senso, in un certo tipo di tecnica e non riuscivo a liberarmi e quindi sentivo questo peso veramente insopportabile, per cui io passavo le ore chiuso in stanza senza fare assolutamente niente, perché non ero più capace a fare nulla. È una situazione che non era però soltanto mia, una situazione, diciamo, che in qualche modo in quegli anni di cui soffriva l'intera avanguardia, più o meno. Più tardi c'è stata un po' una liberazione quando, diciamo, si è aperta un po' l'avanguardia anche ad altri aspetti, anche alla musica di consumo, diciamo. Ma in quegli anni furono piuttosto duri per tutti. Tanto abbiamo molti compositori, per esempio anche Boulez, che praticamente smette di scrivere, ogni tanto produrrà qualche cosa ma a lunghi intervalli, altri come Franco Evangelisti che proponevano una musica puramente mentale, cioè non si doveva scrivere né suonare nulla, altri come Aldo Clementi per esempio che sosteneva, qui una citazione, non si tratta di ricominciare, si tratta di trovare un modo per finire. Aldo Clementi è tuttora di quest'idea che la musica stesse finendo o stia ancora finendo. E io avevo la stessa idea, vivevo lo stesso problema, gli stessi problemi, eccetera, eccetera. Solamente non mi arrendevo a questo fatto e allora ho provato a pensare man mano come potrebbe, dove, qual è l'origine di questa crisi del linguaggio musicale che di fatto ci rende impotenti a scrivere oggi. E allora non l'ho vista, come facevano gli adorniani, come un fatto interno al linguaggio musicale stesso, dove diciamo, il momento storico aveva portato quasi ad esaurimento questo sistema, cioè il sistema tonale praticamente, e quindi ti rendeva impossibile di continuare a occupare lo stesso ruolo come musicista. Io invece vedevo piuttosto una crisi del ruolo stesso, non fosse tanto importante se il linguaggio seguiva o non seguiva questa crisi, l'importante è che la funzione del musicista non poteva essere quella dei secoli precedenti. E allora ho pensato di riflettere proprio su questo fatto, sulla funzione e non sul linguaggio musicale. E di qui è nata poi Sabena. E il momento in cui io faccio questo tipo di riflessioni è proprio questo libretto qui, Musica Società. Difatti, adesso dovrei anch'io ricordarmelo meglio, ci sono dei momenti in cui ancora io mi rifaccio alla una vecchia visione della musica e sono quelli, diciamo, a carattere negativo, così non si può andare avanti. Ci sono altri momenti, come già un primo accenno in quel frammento che abbiamo letto prima, che finisce comporre suoni, sorgenti, canali, destinatari. a questo punto ancora non mi era chiaro che il punto stava proprio in quel comporre. Chi compone? Cioè il compositore che addirittura compone tutto, e questa era un po' l'idea dell'elite di Stockhausen, per esempio, o anche di Nono. Oppure il momento dopo, no, la composizione deve ricominciare da capo, ma da capo in senso sociologico. Deve cominciare decentrato. A pensare musicalmente chi non l'ha mai fatto. E allora venne l'idea chi è il più lontano da una musica intesa in senso ottocentesco, è il ragazzetto di campagna di terza elementare. In realtà mi sembra che nel farti questa domanda tu abbia innescato un procedimento di trasferibilità, di competenze quindi, sì, dalla musica. E infatti il titolo è, stiamo parlando di musica società, come si è capito, quindi musica società, quindi hai trasferito le tue competenze del compositore, eccetera. Quindi è stato quello il momento in cui hai convertito un momento di crisi, diciamo, in un... Ho scaricato la crisi in un certo senso sulla società, cioè su una parte della società, quella più lontana dalla cultura alta, diciamo, quindi il ragazzetto di paese.